Sono le 15 e 4 minuti primi, non è andata in onda la sigla quest'oggi della trasmissione La Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, perché appunto c'è qualche problema al computer che manda in onda le sigle e i pezzi musicali. Quindi ci scusiamo di questa difficoltà tecnica, inizia appunto invece quest'oggi, che è il mercoledì 20 di giugno del 2012, e La Conta, trasmissione contro il carcere. E allora, visto che è saltata diciamo la sigla della trasmissione, iniziamo subito. Oggi affronteremo due problemi sostanzialmente. Uno che riguarda la giornata di ieri, perlomeno come data, il 19 giugno, è giornata internazionale sulla prigionia politica, su tutte quelle persone imprigionate dalla repressione dei vari stati nel mondo perché lottano nei movimenti oppure anche nelle guerriglie, insomma, per cambiare gli assetti sociali e politici del proprio paese. Questa giornata vede sempre tantissime manifestazioni in ogni parte del mondo, pressoché in tutte le parti del mondo, ovunque c'è repressione, ovunque c'è conflitto, ovunque c'è rivolta. E quindi entriamo. La seconda parte affronteremo un tema più specifico italiano, il problema dell'ergastolo, che è un problema che continua a esserci come pena in questo paese, come condanna in questo paese, l'ergastolo, soprattutto l'ergastolo ostativo, quello che non permette di uscire dal carcere se non in una cassa da morto. È un discorso un po', diciamo, difficile da affrontare, però quanto mai urgente, perché appunto vedremo tutte le implicazioni che ne comporta. Ne abbiamo già parlato, ne parleremo perché venerdì e sabato, alla fine di questa settimana, ci sarà un'iniziativa apposta appunto sull'ergastolo. Un attimo di musica e poi iniziamo direttamente. E allora, 15.07, iniziamo la trasmissione e salutiamo un compagno che è con noi del Centro Solidale di Appoggio alla Lotta diciamo, del Chiapas e poi di tutte le situazioni messicane. Ciao Sante, buongiorno. Buona giornata a tutti e a tutte. Allora, il 19, ieri il 19, no, diciamo una data che parla un po', ricorda la prigionia politica o comunque anche sociale, diciamo le lotte dei movimenti sociali sottoposti alla repressione in tutte le parti del mondo, che è incentrata però in particolare su un compagno, un personaggio di cui è bene tracciare un attimo il profilo, un compagno che ha visto la sua lotta, diciamo il suo ruolo importante nella lotta in Chiapas, e che è da 10 anni, dicevi, in carcere, 12. 12 anni, ecco, scusa, e che ne dovrà perlomeno la condanna a tempi veramente biblici. Allora, raccontaci un po' il profilo di questo compagno. Sì, cercherò di fare insomma un piccolo riassunto della storia del professor Alberto Patistan, che è un personaggio all'interno appunto del mondo politico antagonista messicano, un personaggio diciamo emblematico. Già ne abbiamo parlato, già abbiamo accennato alla sua storia varie volte appunto qui dagli studi di Radio Onda Rossa. Dunque, Alberto Patistan è stato incarcerato proprio il 19 giugno del 2000 nella sua comunità di nascita, El Bosque, una comunità tzotzil in Chiapas, nella quale lui era un personaggio, diciamo, molto conosciuto appunto per quanto riguardava la mobilitazione, l'autorganizzazione di tutta la comunità. È sempre andato contro alle politiche del malgoverno, alle vessazioni della polizia, e per questo ovviamente era mal visto dagli organi giudiziari. Attraverso appunto una montatura giudiziaria molto pesante, venne accusato di aver ucciso 6 poliziotti in un'imboscata. Venne arrestato appunto 19 giugno del 2000 con un'accusa e con un giudizio che arrivava a 60 anni di carcere. Da quella data ne sono passati 12 e E il profe, come lo chiamiamo amichevolmente noi, da anni ha continuato la sua lotta all'interno del carcere. Ricordiamo che è il fondatore della Voz de la Mate, un collettivo di prigioniere politiche che ha attuato diversi scioperi della fame all'interno delle carceri del Chiapas. È un po' simile alla storia di Mumia Abu-Jamal nelle carceri statunitensi, accusato di aver ucciso un poliziotto con una montatura spaventosa e che dentro il carcere si è battuto e si continua a battere. Le similitudini in questi casi sono molte. Uno, per l'impegno politico appunto di questi due compagni, due anche per l'impegno per la discriminazione appunto che fa da sfondo a queste condanne, una quella dei neri negli Stati Uniti e l'altra è quella degli indigeni in Chiapas. Molto importante, nel 2008 lei è protagonista all'interno della Mate di uno sciopero della fame lunghissimo e anche vittorioso, possiamo dire, nel quale appunto tutti gli scioperanti, tutti i compagni e le compagne si sono mobilitati in questa azione, anche appoggiata a livello internazionale abbastanza tenacemente, vengono liberati dal carcere, a parte lui, stiamo parlando di centinaia di persone, più di 100 persone, a parte lui che appunto viene identificato come, tra virgolette, sempre un pericoloso sovversivo da parte dello Stato messicano e viene lasciato in carcere. Viene poi trasferito nel carcere di San Cristobal, sempre in Chiapas, e da qui continua il suo lavoro politico, ricominciando il lavoro con la Voz de la Mate, con i compagni che sono rimasti della Voz de la Mate e appoggiando anche altri collettivi che rivendicano appunto migliorie nel sistema carcerario, facendo anche una critica generale al sistema sia della carcerazione politica che del carcere in generale. Questo lavoro appunto ovviamente gli provoca sempre di più antipatie a livello degli organi repressivi dello Stato e ovviamente simpatia da parte nostra. Certo. Noi l'abbiamo conosciuto, abbiamo collaborato molto con lui e nell'ultimo anno appunto abbiamo anche collaborato nell'appoggio dell'ultimo sciopero della fame da lui compiuto appunto a settembre di quest'anno, che è stato anche abbastanza seguito da Radio Onda Rossa, nel quale appunto si è ottenuta una parziale vittoria, che è quella della liberazione dei due compagni e quella del il trasferimento di un altro compagno del collettivo che era isolato in un altro carcere assieme agli altri compagni. Però la conseguenza è stata l'allontanamento del profe di 2000 km dal Chiapas, quindi è stato trasferito nel carcere di Guasave a Sinaloa, 2000 km di distanza, in un carcere di massima sicurezza, cercando di isolarlo sempre di più appunto dall'importante lavoro politico che stava svolgendo nel carcere in Chiapas. Tuttavia lui mi ha detto che lui anche in questa situazione distante, periferica, continua a organizzare. Sta continuando, diciamo che è uscito dai primi momenti di isolamento, sono ricominciate appunto le denunce che appunto i collettivi esterni al carcere, il Nodo Solidale, il collettivo No Estamos Todos, la rete contro la repressione in Messico e in Chiapas, la Croce Nera Anarchista, sta cercando di portare avanti le denunce che lui fa uscire dal carcere, denunce sull'alimentazione, importantissime denunce sulla salute. Ricordo anche che il profe ha dei problemi di salute molto gravi, sta perdendo la vista e ovviamente uno dei principali, mi viene da dire osticamente spagnolo, però uno dei principali impedimenti al lavoro politico che sta portando avanti è quello appunto di negare il diritto alla salute in carcere. E tutti questi tipi di denunce lui li sta continuando a fare, anche formando nuclei di compagni che ragionano a livello politico all'interno del carcere. Ecco, rispetto alla, cioè alla giornata del 19, che tipo di iniziative ci saranno, ci sono state, ci sono, insomma, da ieri ci sarà, ci sono state, ci saranno in Messico e anche in altre parti del mondo? Guarda, diciamo, facendo un piccolo passo indietro, nel mese di maggio, nel giorno 12 e 13, si è convocato un foro internazionale appunto per discutere la questione, per iniziare una campagna forte per la liberazione del profe Pakistan. Però non solo, partendo appunto da questo caso emblematico, parlare a livello messicano e internazionale della questione del carcere politico, della questione poi del carcere in generale. Sono intervenuti tantissime realtà, tutte realtà aderenti all'altra campagna zapatista messicane, alla Sesta Internazionale a livello internazionale, noi come Nodo Solidale, la piattaforma pirata, i collettivi francesi, baschi e olandesi di appoggio al Chiapas. Ci sono stati messaggi di solidarietà dai movimenti di New York, dal Sudafrica addirittura. È stato un incontro molto partecipato. Alla fine di questo incontro è uscito fuori appunto un documento riassuntivo in cui si convocava una giornata di mobilitazione assieme ad altre iniziative, una giornata di mobilitazione per il 19 di giugno, appunto ieri, per la liberazione del profe Pakistan. Fondamentale è diciamo, per riassumere un poco questo discorso, anche la parte, diciamo, molto interessante di questo foro, come veniva chiamato, di questa grande assemblea, è stato appunto il tono internazionalista, che internazionalista in generale, che è stata data a tutte le riflessioni in atto in questa assemblea, sia le riflessioni partendo dai collettivi che lavorano in carcere, lo Solidarios de la Voz de la Madre, che sono incarcerati nel carcere di San Cristobal, per arrivare a riflessioni sui prigionieri palestinesi, sul carcere in Val di Susa, su appunto chi viene incarcerato per la lotta in tutte le parti del mondo. Tant'è vero che una cosa che ci ha molto entusiasmato è il fatto che nel documento finale vengano menzionati Billy, Costa e Silvia, prigioniere svizzere ingiustamente incarcerati, e il caso di Laura Gomez, una compagna della Seguete di Barcellona che pochi giorni dopo sarebbe uscita dal carcere accusata degli scontri del 29 marzo durante lo sciopero generale in Spagna. E poi ecco, c'è questa storia che qui adesso qui in Italia, qui a Roma in particolare, stiamo cercando di sviluppare rispetto alle condanne per i fatti di Genova di 11 anni fa. Mi dicevi che anche il problema, diciamo, della repressione a Genova e quindi di quelle condanne, assolti i massacratori di Stato della Diaz, di Bolzaneto e delle torture appunto fatte, dei massacri, mentre invece i 10 compagni rischiano di 13 luglio, cioè, avranno la Cassazione e rischiano di pagare per tutto quanto. Con questo innalzamento della repressione, che vede un reato associativo, ma ancor peggio compartecipativo, quindi senza nemmeno una struttura organizzata, la possibilità di affibbiare 15 anni di carcere a chi si trova in una piazza e contesta l'operato delle forze dell'ordine, rompendo una vetrina o reagendo in qualche modo, esprimendo la sua rabbia. Ecco, 15 anni di carcere, come abbiamo visto, per rompere una vetrina o un bancomat, questo è oggi il sistema di valori che questa società propone, mentre invece aver massacrato dei ragazzi, delle ragazze, come è successo alla Diaz, e oggi si può vedere anche sui film, non costituisce un problema, perché quei picchiatori, quei torturatori sono assolti, o comunque il reato è stato prescritto, quindi completamente annullato. Ecco, è un problema questo, che rimanda alla deriva in cui queste società stanno, cioè un problema intanto perché riguarda dei compagni e delle compagne che rischiano di andare in galera, e quindi è per noi, così come in ogni parte del mondo, sono parte del nostro sangue, della nostra lotta, e poi soprattutto perché descrive drammaticamente una deriva che un po' tutte le società, e senza più tante distinzioni, in questo senso purtroppo la globalizzazione repressiva funziona dal loro punto di vista, sta assumendo appunto in tutti i paesi. Ovunque il conflitto non è più un fatto, una dialettica anche violenta che lega i movimenti ai sistemi, agli stati centrali, ma o agli organi di governo, ma ha proprio un qualcosa che va annientato, azzerare il conflitto. Questo sembra che sia un po' la parola d'ordine un po' di tutti i paesi europei, nordamericani, ma anche in Sud America, lo vediamo in ogni parte del mondo. Ecco, quindi c'è anche, voglio dire, in queste riflessioni che fate voi, no? Che questa, siccome i paesi del Sud America sono un momento importante in questa fase, perché vivono un grosso problema di trasformazioni sociali, ci sono trasformazioni sociali in corso, qualunque sia il giudizio che se ne vuol dare, comunque è un'area del mondo in grossa evoluzione, e quindi è un laboratorio probabilmente di questa deriva. E quindi che tipo di valutazione date a questa deriva repressiva, a questo inasprimento della repressione in Sud America e in generale un po' nel mondo? Guarda, ad esempio attraverso questo tipo di dibattito sulla prigionia politica in Messico è interessantissimo notare appunto come ci cerchi sempre di più di creare una reciprocità nei rapporti politici, ad esempio, che si instaurano fra le varie realtà che fanno parte appunto dell'antagonismo sociale sia in Europa che in Messico. Mi piace ricordare ad esempio l'esempio di Salvador Dadenco, no? La rivolta contro la costruzione del secondo aeroporto di Città del Messico nel 2006 è vista per loro come una Genova, è la nostra Genova, esatto, del 2001, sì. È stato 4 giorni di battaglia, 4 giorni di repressione fortissima, ci sono stati 3 morti, ci sono state torture in carcere, violenze sessuali nei confronti delle compagne, lo stesso tipo di atteggiamento da parte dello Stato, quindi sono state condanne pesantissime che loro sono riuscite ad annullare attraverso una mobilitazione fortissima nei confronti solidale nei confronti dei compagni e delle compagne che erano incarcerati. Per questo appunto ogni volta che si affrontano questo tipo di tematiche, il rapporto con Genova, il rapporto con gli arresti in Val di Susa, il rapporto con la repressione politica anche in Europa diventa sempre più stretto e diventa una fonte di dibattito che crea dei nodi importantissimi. E anche qui nel caso specifico del prof. Patistan vediamo come si crea una reciprocità importantissima sia dal carcere che fuori dal carcere. Ad esempio ricordo appunto che i compagni che stanno in carcere lottano per la loro liberazione, lottano per i diritti, per il ritorno ai diritti in carcere, come lottano appunto anche per l'abbattimento delle prigioni, però lottano anche per le mobilitazioni che avvengono al di fuori del carcere. Quindi ogni volta che i collettivi, sia in Chiapas che fuori, o il mondo zapatista pratica un'azione, inserisce una mobilitazione, dal carcere si mobilitano in qualche modo, con un comunicato, un piccolo sciopero della fame, una mobilitazione, in modo appunto che per abbattere realmente le mura della prigione. Bisogna mantenere il rapporto interno e esterno, come successe nel ciclo di rivolte degli anni 70 in Italia, quando ad ogni protesta, rivolta o anche sciopero interno al carcere rispondeva la società esterna, e c'era questo grosso che dava forza a chi stava dentro e che allo stesso tempo rafforzava fuori. Certamente. C'è però un altro elemento, secondo me, molto importante, che è, diciamo, di carattere culturale, che noi dovremmo prenderlo come insegnamento, questa, diciamo, questa grossa battaglia di fronte alla repressione del conflitto, ossia che questi compagni, queste compagne che in tutte le parti del mondo vengono represse perché appunto all'interno di movimenti che vogliono le trasformazioni sociali, non si dichiarano innocenti da un punto di vista della legalità di chi comanda, borghese ad esempio in questo caso, o di altre strutture di comando, e affermano il loro diritto di rivolta, di ribellarsi, rifiutano la legalità diciamo del forte, del potente, però affermano il diritto di ribellarsi e quindi rifiuta appunto la fattispecie concreta rispetto a cui sono state condannate, che per lo più sono appunto delle montature, come nel caso di Abu Jamal, come nel caso di questo compagno Chapanego, però appunto rifiutano il concetto di innocenza colpevole, cioè questo binomio innocenza colpevole, quindi scardinano un po' il diritto borghese, il diritto del potente in quanto tale, affermano il diritto della rivolta, la volontà di rivoltarsi e quindi la necessità di portare avanti il conflitto qualunque sia il costo. Questo, diciamo, avviene per una parte dei prigionieri, spesso succede questo, anche perché molti prigionieri politici in Messico sono prigionieri appunto arrestati per lottare, per la lotta che stavano portando avanti nelle loro città, nelle loro comunità, nei loro territori. Altri prigionieri sono appunto semplicemente indigeni che vengono accusati di reati comuni molto spesso e sì, ovviamente, come nel caso di Genova, come nel caso di Salvador Adenco, come in tanti casi, ovviamente una parte della mobilitazione è quella che vuole portare alla ribellazione anche a livello legale, no? Però l'altra parte della mobilitazione è quella che mette in luce altri aspetti, no? Che in Messico sono molto evidenti. Ad esempio, uno, l'indigenismo è un aspetto, l'avversione, la repressione nei confronti degli indigeni è molto forte. Ad esempio, un indigeno viene incarcerato, non ha diritto a un interprete, vengono fatti firmare fogli in bianchi, vengono torturati, solo perché un indigeno fondamentalmente è un possibile ribello, è un ribelle in... Viene condannato per quello che è, non per quello che fa. Chiaramente. Come insomma, da noi il reato di clandestinità. Se tu sei un immigrato e qua, in quanto tale ti dichiaro già colpevole. Quindi è un po' una forzatura anche questa dello stesso... Chiaramente, molti di loro infatti divengono prigionieri politici in carcere, quindi all'interno del carcere iniziano un percorso politico che li porta comunque anche a prendere coscienza dell'ingiustizia che hanno subito e di che cosa significa lottare e cambiare il mondo anche all'interno del carcere. Certo. Senti, ecco, per concludere questo primo aspetto, qui in Italia, per esempio, che tipo di iniziative, cioè in rapporto al Messico, si cercano di fare? Beh, quello che, ad esempio, è importantissimo, secondo me, anche parlarne per radio, appunto, per diffondere comunque l'informazione ai casi. Poi quello che chiedeva appunto la campagna a gran forza e qualsiasi tipo di iniziative, quello che poteva essere un... Sappiamo che ad esempio l'altro giorno a New York sono entrati all'interno dell'ambasciata messicana alcune compagne e compagni appartenenti al movimento Occupy Wall Street, o anche uno striscione all'interno di un corteo per la libertà dei prigionieri politici, la libertà del professor Alberto Patistan, o un qualsiasi tipo di mobilitazione, un presidio, quando comunque ci possono essere i numeri per fare un presidio. Certo. Realisticamente non è che sempre possiamo appoggiare con una quantità di forze adeguate, anche perché i problemi sono tanti, soprattutto anche a livello territoriale, è giusto che si inizino ad affrontare da qui. Certo, però appunto qui perlomeno in Italia, nel movimento qui a Roma, va lamentato in maniera, per sollecitare il movimento a prendere più a cuore il problema del carcere e della repressione, perché in realtà è un intralcio reale al percorso agli spazi che il movimento, che ogni movimento di lotta, ogni conflitto si trova davanti. Oggi lo diciamo tutti, gli spazi del movimento del conflitto si restringono sempre più. Basta vedere un'occupazione di casa è diventato un reato, qualunque tipo di cosa, e allora va affrontato il tema del carcere, anche se non hai compagni in carcere direttamente, poi purtroppo prima o poi succede che la denuncia arriva poi, ed è bene appunto mettersi in quest'ottica, che bisogna in qualche modo frenare questa deriva repressiva dello Stato e provare a ribaltarla per aprire spazio al movimento. Altrimenti il conflitto rimane qualcosa, la criminalizzazione del conflitto è un elemento centrale oggi nella strategia dello Stato, soprattutto in questo periodo di crisi, per tenere a freno ogni insorgenza sociale, che ci sono, abbiamo visto in Grecia e prima o poi anche in Spagna, prima o poi il conflitto prenderà sicuramente voce, perché le necessità lo impongono, e quindi è importante anche affrontare questo tema da un punto di vista teorico e da un punto di vista delle mobilitazioni per ributtare in faccia questa repressione tremenda, perché appunto ormai siamo a livelli di spaventosi, 15 anni per una manifestazione, insomma, non si erano mai visti nemmeno in questo paese, e credo in pochi paesi. No? Poi ci sono le montature, cioè tutto un discorso, il controllo eccessivo, arresti come l'ultima ondata di arresti che hanno fatto qui, a proposito di quel nome Fai, no? che ormai è diventato gli insurrezionalisti, cioè questi nomi abbastanza buttati lì dai media, che poi giustificano ogni ondata repressiva, ogni tipo di repressione di fronte a collettivi, a comitati, a chiunque opera nel sociale. C'è quindi questa necessità. Sì, chiaro, questo è anche un tipo di analisi appunto che si sta facendo molto chiara anche nel foro, ad esempio in questa assemblea nazionale e internazionale che si è tenuta a San Cristobal. Appunto, c'è il discorso che da una parte i movimenti sociali hanno il dovere, hanno comunque la responsabilità di frenare l'attacco frontale appunto da parte dello Stato, quindi da parte dell'inasprimento delle pene, la repressione. Il caso del prof. Patistan è emblematico, con la sua 60 anni di carcere, un accanimento pesantissimo nei confronti della sua persona, appunto identificato come un simbolo di lotta. Certo. D'altra parte esce fuori anche un discorso alternativo al carcere, il discorso appunto di mettere in discussione il sistema carcerario, il discorso della privazione della libertà. In Messico ragioniamo in un territorio in cui in diverse parti, emblematico appunto il caso delle ZLN in Chiapas, e quindi i territori liberati dai compagni e le compagne zapatiste, ci sono altre fonti di ribellione, non stato di Huacacan, a Guerrero, dove appunto il sistema autonomo e di autogoverno ci mette a conoscenza dei spunti interessantissimi per quanto riguarda la questione della giustizia. Là viene chiamata l'altra giustizia, no? L'altra giustizia, ovvero non la giustizia dello Stato, del malgoverno che si accanisce appunto sugli ultimi, ma la giustizia dal basso, che comunque è un discorso particolarissimo e va sperimentato e discusso. E anche quello è l'interessante di questo tipo di discussione. Certo, perché se noi diciamo, e lo continuiamo a dire, lo diremo finché abbiamo fiato in gola, no al carcere, vogliamo distruggere tutti i carceri, tutte le carceri e quindi la repressione, è chiaro che nel momento in cui costruiamo autorganizzazione, no? Realtà auto-organizzate, gestite, è chiaro che come si pone lì il problema rispetto alla sanzione nei confronti dell'eventuale trasgressione, è un problema che si pone anche in positivo rispetto alla società che dobbiamo costruire, che tipo di sanzione, ovviamente non il carcere, ma è un dibattito aperto che da qualche parte sta cominciando a essere affrontato. Ovviamente il percorso sarà lungo, però è un problema che bisogna porci fin da subito, non aspettare l'ora X che poi... Sì, a me mi ricordo ad esempio alcune discussioni con delle compagne di Oaxaca, no? Che hanno appunto partecipato all'esperienza della famosa, tra virgolette, comune di Oaxaca del 2006, dove appunto per 6 mesi venne liberato l'intero territorio cittadino dalla presenza dello Stato, e loro dicevano appunto, come poi succede nelle comunità guerrero, no? Certo. Dicevano appunto, come affrontiamo questo tipo di problema? Sicuramente già questa è una soluzione, perché appunto col sistema autonomo d'autogoverno, autogestionario, assembleare, quando le regole vengono decise dal basso, già la percentuale di reati ritorna a essere l'1% rispetto a quello che adesso. Anche meno. Poi dopo va affrontato anche questo tipo di discussione con l'1% che rimane. Però sicuramente uno spunto importante è quello del sistema decisionale e di come appunto viene amministrato un territorio. Certo, certo. Bene, discorso, diciamo, possiamo considerare questo il sommario di un sistema di affrontamento dei problemi che pensiamo di sviluppare anche con la collaborazione vostra e di altre realtà che lottano contro il carcere, appunto, ovunque, ne prosegue il tempo. Ci prendiamo adesso uno stacco musicale e poi riprendiamo per concludere questo momento. E allora 15:33, terminiamo questa prima così approccio ai problemi, diciamo, un po' internazionali della repressione del carcere. E, rispetto appunto alla situazione ciapaneca, voi del Nodo Solidale sicuramente avete un sito, ce lo puoi raccontare così in modo per gli ascoltatori e le ascoltatrici? Sì, per tutte coloro che vogliono avere informazioni appunto sia sul discorso carcerario in Messico, sia sul discorso di politica generale antagonista appunto che si portano avanti lì. Il sito è nodosolidale.autistici.org e appunto dove noi appunto facciamo traduzioni dei comunicati, riflessioni appunto e controinformazione su quello che succede in Messico e soprattutto anche in altre parti del mondo. Dopodiché ovviamente ringraziamo la Conta e Radio Onda Rossa per averci ospitato un'altra volta e rimandiamo, se possibile, altri spazi ancora per continuare appunto questo tipo di riflessioni sull'altro Messico. Sull'altro, diciamo. Sicuramente lo faremo al più presto e ovviamente auspichiamo una vostra collaborazione più attiva, diciamo. Quindi ci proveremo. Ok, ti ringrazio e buon lavoro. Buona giornata a tutti e a tutte. Ciao. E allora, 15:36, come avevamo accennato, la seconda parte della trasmissione riguarderà il problema dell'ergastolo. E siamo in collegamento col compagno Nicola Valentino, che salutiamo. Ciao Nicola. Ciao a tutti. Allora, Nicola Valentino è un compagno che più volte abbiamo sentito da questi microfoni, si occupa di tante questioni, in particolare si è molto dedicato al problema dell'ergastolo, ha scritto anche un pregevole volume sull'ergastolo, e che abbiamo già presentato, ma casomai sarà occasione, no, di ritornarci, anche perché l'hai aggiornata un po' quel libro, no? L'ultima edizione. E toccava anche, aggiornava anche all'attualità, esatto, il problema dell'ergastolo. Eh sì, perché da un po' di tempo a questa parte si è creato anche l'ergastolo stativo, no? Che è questo inasprimento ulteriore, l'ergastolo da cui non si esce mai, nemmeno la speranza rimane di uscire, almeno nell'altro ergastolo c'è la speranza che può diventare realtà oppure no, però la speranza c'è, lì invece anche la speranza è cassata, è venuta meno. E va bene, allora, e rispetto però appunto al problema dell'ergastolo c'è un'iniziativa questo fine settimana, ce ne vuoi parlare concretamente? Sì, questa iniziativa è stata già fatta lo scorso anno, sempre di questo in questo periodo. Perché in questo periodo? Perché si svolge nel quadro della giornata mondiale dell'ONU contro la tortura. E quindi quest'anno, praticamente sabato 23 giugno, faremo la stessa iniziativa dello scorso anno. Abbiamo scoperto lo scorso anno che nei pressi di un ergastolo storico, che è l'ergastolo dell'isola di Santo Stefano di fronte all'isola di Ventotene, praticamente c'è questo ergastolo storico costruito dai Borboni verso la fine del 1700, che è rimasto attivo fino al 1962-66. E quindi è un carcere che è significativo anche perché è uno dei primi veri carceri costruiti nella penisola, costruiti diciamo in territorio italiano, e ne dà una tecnologia, viene costruito con una tecnologia di controllo moderna per la fine del Settecento, che è il dispositivo panottico, praticamente, che consiste nel fatto che gli agenti di custodia, le guardie potevano tenere sott'occhio costantemente la struttura stessa del carcere a ferro di cavallo, con le celle messe lungo questo semicerchio, consentiva ai controllori di tenere sempre sotto lo sguardo i reclusi. Questa è una tecnologia che poi si svilupperà nel Settecento, nell'Ottocento, nel Novecento, ed costituisce quello che è il meccanismo di controllo disciplinare del panottico. Fa impressione a vederlo, io pure l'altro anno l'ho visto, fa impressione perché per la sua modernità in senso agghiacciante, no? Perché sembra veramente fatto recente, a parte i muri, le mura scrostate, però sembra la struttura proprio architettonica è troppo moderna, e quindi, come dire, il sapere della repressione, del controllo è veramente risale molto indietro. Sì, beh, oggi noi il dispositivo panottico lo incontriamo passeggiando per strada, andando nella metropolitana, ed è il dispositivo panottico gestito dalle videocamere, dalle telecamere, ma diciamo l'origine di questo meccanismo di controllo sociale ha origini appunto venne ideato da Bentham come dispositivo per controllare, per svolgere il controllo in tutte le istituzioni totali, nelle carceri, nelle istituzioni psichiatriche, negli ospedali, tutte le istituzioni, nello spirito di Bentham, che ideò questo congegno di controllo, dovevano adeguarsi in vario modo, con architetture particolari, però adeguarsi a questo meccanismo di controllo che consente, come lui diceva, il controllo di una mente sopra un'altra mente, perché il recluso, sapendo di essere controllato 24 ore su 24, interiorizza il controllo, si autocontrolla, diventa reclusore di se stesso. Questo è il meccanismo di controllo disciplinare del panottico, che nell'ergastolo di Santo Stefano si vede proprio come un archetipo, insomma. Fu un architetto che in realtà lo concretizzò, Bentham lo ideò, ma diciamo una delle concretizzazioni architettoniche più evidenti è questo carcere, questo ergastolo di Santo Stefano. Ma al di là diciamo, questo è il carcere, nei pressi del carcere, cioè il carcere ci fa vedere la tecnologia del controllo. Vicino al carcere, poco lontano, camminando lungo un viottolo, troviamo, si può fare un'altra esperienza, perché si incontra un altro luogo che è il cimitero collegato, annesso al carcere, un cimitero dove venivano sepolti gli ergastolani che morivano in carcere. Ci sono anche foto d'epoca che ritraggono questo corteo funebre con gli ergastolani con le divise a strisce che accompagnavano il recluso, l'ergastolano da seppellire all'interno del cimitero, e questo corteo funebre era un corteo terribile dal punto di vista dell'esperienza, perché gli ergastolani che accompagnavano il loro compagno morto in realtà vedevano quello che sarebbe accaduto a loro poi, che è l'esperienza di morire in carcere, sì, di morire durante la pena. Questo cimitero ha 47 tombe e sono delle tombe senza nome, ci sono le croci, ma non c'è nessun nome su queste tombe. Visitando questo cimitero ci fa vedere, mentre il carcere ci fa vedere la tecnologia, questo cimitero ci fa vedere l'esperienza dell'ergastolo che è una condanna a morire in carcere. E dalla visita, dall'incontro con questo cimitero, che è nata l'anno scorso e rifaremo quest'anno, questa iniziativa di tipo simbolico che consiste in un viaggio, mettersi in cammino da varie città d'Italia e arrivare al cimitero dell'ergastolo di Santo Stefano per portare dei fiori su queste tombe. L'anno scorso abbiamo portato delle piantine di fiori, quest'anno cercheremo, perché nel corso dell'anno abbiamo anche fatto una scoperta importante, che un Veronelli, che era enologo, conosciuto come un importante enologo italiano, ma che era anche anarchico, Veronelli fece un viaggio verso la fine degli anni 60 in questo carcere, in questo cimitero, e allora c'erano ancora alcuni nomi, alcune lapidi sulle tombe, e Veronelli ci ha lasciato praticamente in un vecchio articolo che scrisse una mappa non di tutte le 47 tombe, ma di una trentina di tombe, una mappa con i nomi delle persone che sono seppellite dentro quella terra. E con la mappa di Veronelli quest'anno proveremo anche a ridare dei nomi alle persone seppellite lì, agli ergastolani seppelliti lì. Lì l'esperienza che si fa è un'esperienza che fa vedere, uno, come le persone condannate all'ergastolo venivano separate, non erano seppellite nel cimitero di Ventotene, erano seppellite in un cimitero a parte, quindi venivano tenute separate dal consorzio umano anche dopo morte. L'altra cosa simbolica importante di questa esperienza che stiamo rifacendo è che questo ergastolo di ieri, del primo ergastolo che è costruito, ci fa vedere, come si diceva prima, l'ergastolo di oggi. Oggi, come dicevamo, di circa 1500 persone condannate all'ergastolo, 1000 di queste 1500 persone praticamente per una serie di leggi che sono state fatte tra gli anni 90 e il 2000 non hanno la possibilità di chiedere dei benefici per poter uscire dall'ergastolo, a meno che non collaborano con gli organi inquirenti, quindi non mandano in carcere altre persone, insomma. E quindi per queste persone, per queste 1000 persone, oltre ad avere la condanna all'ergastolo, queste 1000 persone non hanno la possibilità di chiedere benefici che consentono con l'ottenimento della liberazione condizionale dopo 26 anni la possibilità, non la certezza, ma la possibilità di discrezionale di ottenere la condizionale di uscire dalla pena. Questi 1000 ergastolani questa cosa non è consentita. Oltretutto molti di questi 1000 ergastolani si trovano anche in una situazione di massima sicurezza del 41 bis, quindi subiscono un triplo schiacciamento, diciamo, da parte dell'istituzione. Hanno l'ergastolo, hanno un ergastolo senza speranza e sono in una condizione di massimo isolamento. Porta un fiore per l'abolizione dell'ergastolo nel cimitero di Santo Stefano, è un cammino simbolico per vedere e far vedere attraverso questo cimitero ciò che è l'ergastolo oggi, almeno per 1000 dei 1500 ergastolani. Certo, e questa sia il cimitero vecchio dell'ergastolo di Santo Stefano, sia l'ergastolo stadio di oggi dimostrano, se ce ne fosse bisogno, per chi crede ancora, quanto sia truffaldina l'idea del carcere come rieducazione e reinserimento. In realtà il carcere separa per annientare, per distruggere, questo anche per le pene minime, però appunto l'ergastolo, in questo caso quello stativo, oppure il cimitero, danno con chiarezza questa falsità, insomma. Sì, voglio dire anche che anche l'ergastolo non ostativo non è una garanzia di il fatto di avere un ergastolo che non rientra in quelle tipologie di reati che sono esclusi dai benefici e quindi sono ergastolo a tutti gli effetti fino alla morte, anche gli ergastolani che non hanno questo tipo di ergastolo, come si sa, la possibilità di ottenere la libertà condizionale è estremamente discrezionale e oltretutto la percentuale di liberazioni condizionali è estremamente ridotta, certo. La concessione della libertà condizionale, questo non solo agli ergastolani ma anche alle persone ai reclusi che hanno pene temporali, certo. E soprattutto dipende da un altro potere, non dipende da te detenuto poter accedere, ma è soltanto appunto una discrezione totalmente esterna, quindi totalmente vessatoria da questo punto di vista. Sì, la persona condannata all'ergastolo non ha nessuna certezza, non ha, a differenza di una persona che è condannata a una pena temporale, una data di fine pena, il suo diritto alla libertà non è riconosciuto, certo. Non ha, e quindi è nelle mani dell'istituzione, che può decidere a sua discrezione se, come, quando e semmai potrà ottenere una libertà. Per 1000 di queste persone all'ergastolo l'istituzione dice: voi non la ottenerete mai questa possibilità a meno che non collaborate con gli inquirenti. Infatti. Senti, allora, questa vostra andata a Santo Stefano, quali sono le associazioni che vi partecipano, i compagni e le compagne? Guarda, attualmente lì, diciamo, attualmente la cosa è stata promossa dall'associazione che poi l'abbiamo fatta anche l'anno scorso, l'associazione Liberarsi, Sensibili alle Foglie, una delle associazioni che ha aderito è Papillon di Rimini, molte quest'anno, mentre l'anno scorso eravamo proprio un piccolissimo numero, quest'anno ci sono state molte adesioni di singole persone che hanno trovato questa iniziativa significativa e si stanno mettendo in cammino ci stiamo tutti mettendo in cammino per andare a Santo Stefano. Quest'anno, diciamo, dalle adesioni che ci sono arrivate finora, dovremmo essere intorno a una trentina di persone, persone di ogni, cioè l'evento per la caratteristica che sta assumendo è un evento totalmente trasversale, cioè vengono persone che lavorano sul carcere, persone che hanno fatto l'esperienza del carcere, viene un gruppo di artisti, l'anno scorso al primo gruppo partecipò un artista che è italiana, che vive in Olanda, che si chiama Rossella Biscotti, che ha poi in settembre fatto anche, a settembre del 2011, dopo il primo viaggio, fatto anche un intervento artistico per porre all'attenzione il problema dell'ergastolo. Quindi viene anche un ambiente di giovani artisti che stanno, come dire, prendendo a cuore questo problema dell'ergastolo attraverso questa e altre esperienze che potranno essere fatte. Certo. Senti, se qualcuno o qualcuna volesse ancora partecipare, come vuoi, no? Dare delle indicazioni di dove trovarsi, dove raggiungervi, di come... Allora, lì quest'anno l'iniziativa sarà anche più articolata. Allora, sabato 23 praticamente c'è un traghetto che parte, diciamo, il traghetto che porta a Ventotene parte da Formi alle 9:15. Quindi le persone che possono confluire a Formia per questo traghetto delle 9:15 che arriva a Ventotene intorno alle 11:00. L'appuntamento è al porticciolo di Ventotene alle 11:00 e poi da lì saremo dal porticciolo di Ventotene a Santo Stefano si può andare solo con un trasbordo su gommoni, cioè su piccole imbarcazioni, perché l'approdo anche a Santo Stefano non è un approdo da porto, ma c'è un piccolo accesso a questa isola prigione dove c'è l'ergastolo e dove c'è il cimitero. E lì poi saliremo al cimitero, porteremo dei fiori, cercheremo di dare dei nomi alle persone che sono sepolte. Questo di dare i nomi per noi è una cosa importante, perché le iniziative per abolire l'ergastolo devono attraversare le epoche storiche. È importante che l'ergastolo venga superato al presente, ma è importante anche che chi in passato l'ha fatto venga riportato nel consorzio degli esseri umani, della società. Dare i nomi, ridare i nomi è un modo anche per persone che sono morte all'ergastolo di riportarle all'interno della società. Poi ci tratterremo un po' lì nei pressi del cimitero, chi vuole, c'è un musicista che ha avuto il desiderio di fare un omaggio, quindi ci tratterremo lì vicino per ancora per un po' di tempo, poi torniamo a Ventotene e la sera, cioè verso le 18, stiamo lavorando per poter fare a Ventotene un incontro pubblico per spiegare anche ai cittadini di Ventotene il senso di questa esperienza che è iniziata lo scorso anno e che si ripete quest'anno. Ci sosterranno, ci sostengono un'associazione di ventotene che organizza le guide al vecchio ergastolo di Santo Stefano, e che sono molto bravi, perché il lavoro che hanno fatto un lavoro di documentazione negli anni sulla storia di quell'ergastolo e anche sulla storia del cimitero, molto serio, diciamo. E poi c'è anche a Ventotene una libreria e in collaborazione con la libreria, con questa associazione, abbiamo anche informato l'ente parco di Ventotene di questa iniziativa. Poi la sera cercheremo di raccontare l'esperienza, che tipo di esperienza è stata, che prospettive c'ha questa esperienza, porta un fiore per l'abolizione dell'ergastolo. Quindi chi vuole può anche partecipare la sera a questo evento e quindi ripartire poi la domenica mattina da Ventotene. Chi invece non ha queste possibilità poi può partire dopo la visita al cimitero degli Ergastolani, poi può prendere un traghetto la sera stessa da Ventotene. Bene, Nicola, ti ringrazio per queste informazioni, ci sentiamo grazie a voi. Questa visita, per fare un po' il punto, per raccontare come è andata, ok, quindi vabbè. Buona, non dico gita perché non è una gita, è una battaglia, è una parte della battaglia contro l'ergastolo, contro la repressione, contro il carcere, che chiaramente va combattuta, sì. E quindi buona lotta, diciamo così. Vabbè, grazie, ciao Nicola, ciao. You see the thoughts in my head, all the words that were said, all the blues and the reds get to me. There was a time when all of my mind was love. Now I find that most of the time love's not enough. Bene, termina qui la trasmissione La Conta di questo mercoledì. Ci scusiamo perché non c'è nemmeno la sigla di chiusura, come non c'era la sigla di apertura, perché appunto il computer che ha questi brani musicali in memoria e quindi dovrebbe trasmetterli non funziona, è saltato, cioè qualche problema, per cui niente, si fa meno della sigla di chiusura. Vi lasciamo con questo pezzo di Depeche Mode e vi auguriamo a tutti e tutte buona giornata, buon ascolto, ma soprattutto buona libertà a coloro che ne sono privati o private in ogni parte del mondo, ovunque esseri umani siano costretti alla privazione di libertà. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Buona libertà a tutti e tutte.